venne più in carico per comprare il carro gallo, per non mettermi in casa di trovarsi non è male, per non mettermi in casa di trovarsi non è male, per non mettermi in casa di trovarsi non è male, c'è nell'aria una malia, per non mettermi in casa di trovarsi non è male.